ci avvisa, benvenuti in paradiso. E tu che graffi sotto pelle, come polvere di stelle, sempre più. Take me down to LA. Mentre sanguina la vita, tra le palme e i sushi bar, ricopriamo le ferite col cerone delle star. È una notte da star male, in questo immenso luna park. Queste strade, la brea, downtown, e colline che versano sound, tra i lampeggianti e le sirene, ed il vento nelle vene, vene. Baby, down to LA. Ballare liberi ed urlare a un mondo che non sogna più, un altro brindisi al veleno, luna cicana di città, con mille teschi tatuati, ed il tuo rimel da rockstar. But I